Investire informati. Allora diamo il benvenuto al dottor Francesco Sandrini. Guardi, io la sua carica la dico solo una volta, dopodiché non la ripeto più per tutto il programma. Head of Multi Asset Security Solutions di Pioneer Investment. Accidenti. L'ho detta correttamente? L'ha detta tutta di fila. Tutta di fila, non mi sono sbagliata, c'erano anche un sacco di S. Tra l'altro, no, possiamo dire che lei gestisce per Pioneer Investment tutto il mondo di questa nuova classe di fondi di investimento che sono i multi-asset, nuovi per modo di dire, probabilmente un po' nuovi per qualche categoria di risparmiatori, poi magari ridiamo un po' le caratteristiche di questa tipologia di fondo di investimento. Invece ai nostri ascoltatori, se vorranno farlo, come sempre giro il nostro numero verde che è l'800 24 00 24 per domande e curiosità. Se non avete capito qualche notizia che appare sui giornali finanziari di questi giorni, magari così ditecelo e cercheremo di darvi una mano ad interpretare un po' meglio i fatti finanziari. Ma anche se avete un po' un portafoglio investito e non siete più, come dire, in questo momento certi delle scelte che avete fatto, magari raccontatecelo e vediamo un po' se possiamo darvi qualche dritta su come riorganizzare la vostra strategia di investimento, naturalmente tenendo fermo il fatto che l'abbiate già fatto con il vostro consulente. Allora, dottor Sandrini, come le chiedo subito una battuta su quello che stiamo vedendo in questi giorni sui mercati finanziari. Come giudica questa tranquillità che stiamo vedendo? Oggi stanno scendendo di nuovo tutte, ma veniamo da un periodo abbastanza favorevole. Come dire, gli investitori a livello internazionale ci sembrano un po' meno nervosi rispetto all'inizio dell'anno, quando a causa della crisi cinese davvero in borsa è successo di tutto e di più. Qual è la fotografia che lei ci porta? Guardi, non vorrei iniziare togliendovi il sonno. Esatto. Però andiamo di mandorla intanto noi, a latte di riso. Lei ha inquadrato benissimo il problema. Penso che quello di cui sia logico parlare sia di una quiete prima della tempesta. Non possiamo più... Partiamo subito così. Ma sicuramente lo scenario che abbiamo visto per tutto l'anno 2015, che è uno scenario di alternarsi di fasi rialziste e di correzioni di mercato estremamente pronunciate su tutti i mercati, dagli indici azionari fino agli indici obbligazionari, è lo scenario che ci aspettiamo anche per il 2016. Perché? Perché fondamentalmente stiamo facendo fronte a una realtà che vede un deterioramento progressivo delle situazioni macroeconomiche. Stiamo banalmente vedendo un deteriorarsi della domanda aggregata mondiale, un rallentamento dei tassi di crescita sia sui paesi sviluppati che sui paesi emergenti. Noi nello scenario che di solito discutiamo con i nostri clienti parliamo di low, che in inglese vuol dire bassa crescita, bassa inflazione. In questo scenario le banche centrali hanno provato a porre una pezza in maniera molto efficace a comprare tempo, e quello che accade sostanzialmente è che questo binomio tra banche centrali e crescita si è brutalmente interrotto, perlomeno nella percezione degli investitori, già da agosto dell'anno scorso. Vediamo infatti da agosto che i principali indici, con l'eccezione dello Standard & Poor's, sono ancora in territorio, seppure leggermente negativo, e riteniamo quindi che questo alternarsi di fasi di alta volatilità e fasi di bassa volatilità sia congenito a questo tipo di struttura, dove la parte della crescita è in deterioramento e c'è un intervento monetario che tuttavia ha degli effetti collaterali. Molto interessante questo richiamo allo scorso agosto, perché negli ultimi anni abbiamo visto che momenti di crisi peggiore si sono sempre consumati in piene ferie per tutti, quindi richiamandovi al lavoro, richiamando anche noi giornalisti all'attenzione molto prepotente su quello che succede. Mi ricordo proprio l'agosto scorso, da un giorno all'altro dai giornali finanziari scomparve improvvisamente la crisi greca per far posto a quella clamorosa cinese che ancora ci stiamo trascinando dietro, esattamente come successo all'inizio di quest'anno. Quest'anno, tra l'altro, anche a gennaio, periodo normalmente di bonaccia. Durante il ritorno dalle vacanze io non me lo dimenticherò mai più, perché sono stata in diretta tutto il giorno con il racconto delle giornate di borsa dal 2 gennaio in avanti. Per cui, insomma, diciamo che prevalgono come indirizzo da dare anche ai nostri ascoltatori le ragioni di cautela per muoversi sul mercato azionario in questo momento. Però stiamo anche controllando, poi magari ne parleremo nel corso della trasmissione, come stanno andando le trimestrali delle società quotate. Tutto sommato non ci sono proprio delle raffiche di cattive notizie, dottor Sandrini, che ne pensa? No, non ci sono Sandrini, raffiche. Sì, Sandrini, ho accavallato l'ospite precedente con il suo. No, non ci sono raffiche di cattive notizie. Noi abbiamo una visione sostanzialmente costruttiva sugli utili delle imprese sia in Europa che negli Stati Uniti. Molto è stato legato alla dinamica dei tassi di cambio. Tuttavia, penso che se vogliamo vedere questo tipo di dinamica dal punto di vista più strutturale, sugli utili di un'impresa grava la necessità di avere una crescita sostenuta, certo, e non una crescita in contrazione. Quindi sicuramente guardiamo l'aspetto positivo. Ci sono mercati come l'Europa che dovranno fare i conti con 3 mesi, 6 mesi di volatilità che è anche legata a tensioni di natura geopolitica. Pensate alla difficoltà di formare governi in stati come la Spagna, esatto, l'Irlanda, la Spagna. Piuttosto il referendum sulla Gran Bretagna per la eventuale permanenza all'interno dell'Unione Europea. E infatti abbiamo anche questo spettro che aleggia in Europa, la Brexit. Conosceremo un po' l'orientamento del Regno Unito solo a fine giugno, ma intanto è un argomento all'ordine del giorno. Intanto 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Allora, sto già notando quelle che stanno arrivando. Io volevo raccomandarmi con gli ascoltatori di non fare domande su singoli titoli, perché lo sapete bene che noi non rispondiamo, potremo prendere a pretesto i vostri quesiti per fare considerazioni di carattere generale. Vedo che qualche ascoltatore, dottor Sandrini, sta già chiedendo informazioni sul settore energetico. D'altronde anche il petrolio ci si è messo in questi ultimi mesi a disturbare un po' il sonno degli investitori e degli operatori finanziari. Abbiamo visto un recupero delle quotazioni in questi ultimi giorni, ci si aspetta che dai nuovi vertici tra paesi OPEC e non OPEC si prenda una decisione definitiva sul congelamento della produzione, appunto per tornare a far salire i prezzi, ma ogni riunione finisce sempre con un nulla di fatto. Quanto ci deve preoccupare questo argomento? Ci deve preoccupare nella misura in cui noi continuiamo a vedere uno scollamento tra le dinamiche, se vogliamo, più fondamentali, cioè di domanda e offerta, e come effettivamente i mercati finanziari reagiscono. Noi, lei ha ragione, abbiamo visto il WTI, che è l'indice del petrolio West Texas, che è uno dei principali indicatori. Il greggio americano, sì. Esatto, il greggio americano, che è tornato sui livelli di $45 al barile, che sono i livelli che non vedevamo più da novembre. Però contemporaneamente i miglioramenti che abbiamo visto sullo bilanciamento tra domanda e offerta, qui abbiamo un problema sul petrolio di eccesso di offerta, eccesso di stoccaggio, sì, e di dinamica tra i paesi OPEC e gli Stati Uniti, che porta sostanzialmente a una guerra dei prezzi, se vogliamo vederla in questi termini. Però il mercato ha anticipato moltissimo questa correzione di squilibri. È come se il mercato stesse già scontando un miglioramento della dinamica tra domanda e offerta, che vedremo probabilmente verso la fine di quest'anno, cioè dove vedremo questo gap chiudersi, e quindi in questo momento le valutazioni sono già valutazioni un po' più ragionevoli, che hanno portato avanti, esatto, questo tipo di ragionamento. Mi permetta di dirle che non è semplicissimo investire specialmente sugli ETF e sul petrolio, perché dipende moltissimo anche, qui mi rendo conto di entrare in un argomento un po' tecnico. No, però dalle valute anche, quindi da che cosa altro? Dipende dalla pendenza delle curve dei futures, questo tipo di commodities. Le scommesse che si fanno sul prezzo sostanzialmente. Certo, fino a che la pendenza delle curve sui futures rimane molto forte, molto pendente, noi abbiamo un effetto negativo proprio per il fatto di come vengono implementati questi investimenti all'interno degli ETF. Quindi a meno che non si veda un sostanziale repentino rialzo e cambiamento della pendenza delle curve dei futures, l'investitore in ETF sul petrolio tende a perdere. È assolutamente un mercato molto volatile, è molto difficile da approcciare. Noi lo raccomandiamo sempre, mi ricordo proprio qualche settimana fa, con il prezzo del petrolio al suo minimo assoluto, un ascoltatore ci chiamò dicendo: io di mercati non so niente, di finanza non so nulla, però so che quando tutto scende forse è il momento di comprare. Come posso cavalcare questa tendenza del petrolio? Noi abbiamo suggerito la massima cautela, poteva anche avere un senso nel proprio portafoglio mettere anche una quota del proprio risparmio negli strumenti che puntano sulle materie prime, però deve essere veramente assolutamente abbastanza contenuta. Assolutamente sì, specialmente condivido l'idea dell'ascoltatore legata al fatto che normalmente le buone occasioni di investimento sono quando gli scenari sono polarizzati, estremi. Noi abbiamo transitato, come lei citava giustamente, a gennaio, uno scenario di estrema deflazione attesa. In questo contesto è sempre una strategia auspicabile quella di prendere esposizione sui temi che sono stati più penalizzati da questo tipo di aspettative. Per esempio, i titoli obbligazionari legati all'inflazione hanno registrato buone performance da gennaio, proprio per il fatto che, un po' aiutati dal petrolio, lo scenario si sta lentamente spostando, certo, dalla deflazione. Però insomma è una relazione molto difficile da stabilire se siamo piccoli risparmiatori, petrolio e titoli di Stato legati all'inflazione. Pensate quante nozioni dobbiamo avere in testa per comprendere queste dinamiche. Una monetina te, una te, una monetina pure te, così fanno tre, una monetina pure. E beh, di queste monetine ne hanno stampate tante, sia la Banca Centrale Americana che la Banca Centrale Europea. Ha fatto tanto nei mesi passati anche la Bank of Japan, la Banca Centrale del Giappone, che invece stamattina ha detto basta, chiudo qua la serranda, non stampo più nulla, almeno per il momento. Infatti Tokyo meno 3,61%. Di banche centrali, di politica monetaria negli Stati Uniti e nell'Eurozona continuiamo adesso a parlare con Francesco Sandrini, Pioneer Investment, che è il nostro esperto di questa mattina, molto apprezzato dagli ascoltatori per la chiarezza di espressione, dalle ascoltatrici anche, perché appunto è anche necessario parlare con molta chiarezza per interpretare tutti questi fatti sui quali continuiamo a concentrare la nostra attenzione. E intanto 800 24 00 24, fra un po' prendete in mano la cornetta perché vi faremo il nostro solito domandone se volete guadagnarvi il diritto ad un libro della Biblioteca di Cuore e Denari. Allora, dottor Sandrini, ieri sera nuova riunione della Banca Centrale Americana. La Federal Reserve non ha alcuna fretta di continuare ad alzare i tassi di interesse dopo questo micro intervento fatto a dicembre. Al termine della sua riunione ieri sera la Federal Reserve ha lasciato invariati, appunto come previsto, i tassi, e prossime strette, ha detto l'Istituto Centrale appunto statunitense, arriveranno presumibilmente in là nel tempo, anzi esattamente ha detto la Federal Reserve, i tassi resteranno per un po' sotto i livelli che ci si aspetta prevalgano nel lungo termine. Anche qua un modo di dire le cose che non si capisce per quale motivo non possano essere dette in maniera un po' più chiara. Detto questo, stop all'aumento dei tassi. Per un investitore che vuole cogliere l'occasione di investire in una buona diversificazione, che supponiamo già abbia del suo portafoglio a Wall Street, quanto deve interessarci il fatto che i tassi di interesse americani per il momento non torneranno a salire? Beh, tantissimo. Iniziamo a definire il fatto che l'economia americana, come tante economie mondiali, sono cresciute creando debito, e questo è un assunto molto importante da capire. Il perché la Federal Reserve sia così riluttante, se vogliamo, a rialzare i tassi è proprio legato al fatto che le politiche monetarie, dopo tanto tempo che vengono messe in opera, creano degli effetti collaterali. Lei nota che la crescita americana è molto legata alla dinamica dei consumi, sì, ma i consumi sono molto legati alla possibilità di indebitarsi, quindi che siano prestiti studenteschi, che siano prestiti per... Abbiamo proprio ieri raccontato la notizia del livello record che c'è negli Stati Uniti dei prestiti studenteschi, appunto secondo il programma federale Stafford, ed è un altro record, è stato paragonato addirittura al livello del debito pubblico di altri paesi, quindi veramente un livello incredibile. No, assolutamente. E quindi lo leghiamo anche quello addirittura all'andamento dei mercati finanziari. Certo, ma tutti questi prestiti, nella loro possibilità di essere poi onorati, hanno bisogno di avere salari che sono in risalita, soprattutto per quegli studenti che entreranno nel mondo del lavoro e con un bel fardello già sulle spalle di debito, $35,000 a testa, se non ricordo male. Se questa dinamica reflazionistica, quindi questa dinamica di produttività, non avviene, chiaramente abbiamo un problema. Abbiamo il problema che questi debiti saranno difficilmente onorati. L'economia americana è un po' un'economia costruita sul debito, come tante economie di paesi emergenti. Quindi qual è la situazione? Oltre a tutto quello che vendono ai cinesi di debito pubblico, peraltro, insomma, il tema del debito sempre all'ordine del giorno. Quindi abbiamo la necessità di avere una banca centrale che sia accomodante. Nel momento in cui i tassi vengano rialzati, ci sono interi segmenti dell'economia americana che avranno problemi, come il segmento delle obbligazioni ad alto rendimento, specialmente legate a settori come il settore petrolifero e il settore delle materie prime. Gliela faccio breve, però sostanzialmente qui se leggiamo il contesto di cui abbiamo parlato prima, di scarsa crescita, di scarsa produttività, ma di intervento continuativo delle banche centrali, avremo sempre più un mercato che si muove tipo le montagne russe, dove esisteranno le possibilità di fare soldi nel momento in cui noi andremo ciclicamente ad acquistare titoli che sono stati pesantemente danneggiati da questo tipo di contesto. È il caso per esempio degli energetici, dei bancari, ci sono molte opportunità. Non pronunci il termine bancario in Italia, che siamo ancora molto suscettibili su questo tema. Ma questo è un buon punto. Quanto il mercato ha già penalizzato una serie di informazioni che conosciamo? Io penso che sul settore bancario esistano opportunità, specialmente in Europa, proprio legate al fatto che tanto dei venti a sfavore che abbiamo visto sul settore bancario si sono già manifestati, mm-hmm. e forse il mercato sta penalizzando queste aspettative in maniera estrema. Allora, io direi di aprire anche le porte ai nostri ascoltatori. Sentiamo un po' Luca da Modena da che cosa è stato stuzzicato rispetto alle riflessioni che ha fatto fino a questo momento, dottor Sandrini. Luca, buongiorno. Buongiorno. Vuole proprio lei un'indicazione molto pratica, insomma. Esatto, io ho sentito l'esposizione che ha fatto l'esperto Sandrini lì della situazione economica, e poi ho perso alcune battute, non vorrei che avesse poi spiegato già e non ho sentito il punto. Alla luce appunto di tutte queste esposizioni che sono altamente interessanti, uno che volesse investire adesso, per esempio, lo consiglia a rallentare, aspettare che qualcosa si muova, oppure il passo verso i bancari potrebbe già essere tenuto in considerazione? Allora Luca, se ha pazienza, noi abbiamo fatto confezione, siccome io e Nicoletta siamo due formichine, abbiamo messo da parte un po' di soldini, perché qua non si sa mai con tutta la volatilità che arriverà, perché la stanno pronosticando molti Sandrini della situazione, abbiamo chiesto a Pioneer di farci due portafoglietti di investimento. Gli consegneremo nella seconda parte, nell'ultima parte della trasmissione che arriva tra poco, 10.000 euro, e quindi gli chiederemo il portafoglio aggressivo della Rosciani e quello più prudente della Carbone. Cui Luca, tradurremo le considerazioni fatte da Sandrine proprio in in termini operativi, fermo restando però che non si può investire solamente guardando l'andamento dei mercati. Noi vi raccomandiamo sempre di fare degli investimenti in una logica di obiettivi di vita, quindi dipende da che cosa le serve questo denaro, Luca. Se deve comprarsi una casa fra 10 anni, oppure mantenere agli studi i suoi figli, farsi la pensione di scorta. Sandrini, mi aiuti lei in questa riflessione, perché qua non è mai abbastanza il fiato sprecato su questo concetto. Questo è un momento in cui l'orizzonte di investimento e l'obiettivo che si vuole conseguire è fondamentale nel chiarimento di che tipo di strategia di investimento adottare. Quindi non c'è mai una soluzione che vale come l'antibiotico per tutte le patologie, ma qui ci sono una serie di soluzioni che sono indicate per l'orizzonte di investimento. Per cui Luca, adesso fatto salvo questo principio, poi andremo anche ad andare, come dire, per quello che è possibile, qualche indicazione pratica. Allora, riscomodiamo Rischia Tutto, dovremmo chiamarlo Fazio, Nicoletta, qua ce lo siamo dette più volte, magari una volta lo facciamo fare a lui il nostro domandone. Allora, Banca Centrale Americana, sentite la domanda che vi propongo stamattina. Ieri sera ha deciso niente movimenti sui tassi di interesse, ma la decisione in realtà la prende quello che viene definito il braccio operativo della Banca Centrale Americana, che si chiama FOMC, FOMC. Allora, tanto lo so che andate su Wikipedia e su internet al volo, vediamo se siete bravi stamattina a scomporre questa sigla e a spiegarci che cosa ci sta dietro. Prendiamo solo le telefonate, se volete il libro, 800 24 00 24. Scriveteci la domanda, non scriveteci la risposta con l'SMS, perché siamo un po' rigide, come sapete, un po' rigidine, un po' professorine, e quindi non vi accontentiamo in questo modo. Allora, dottor Sandrini, adesso andiamo ai portafogli, ma abbiamo parlato di Banca Centrale Americana, adesso andiamo a quella europea, perché qua Draghi ha tutt'altre gatte da pelare, deve ancora continuare ad inseguire l'andamento dei prezzi nell'eurozona, questo scenario deflazionistico che è sempre la sua preoccupazione fondamentale. In questi giorni è ritornato a litigare con la Bundesbank, e detto questo, scenario di tassi ancora bassi, e lui proprio pochi giorni fa ha ribadito: farò ancora di più. Se non siete contenti, io continuerò ad allentare ulteriormente la politica monetaria. Cos'altro potrebbe fare? Quali altre cartucce ha a sua disposizione? E al risparmiatore in questo momento come si deve orientare in questo scenario? Guardi, non tante settimane fa ero a Francoforte alla Banca Centrale Europea. Ha incontrato Draghi? Ho incontrato Mersch, che è uno dei membri del direttivo voting board, esattamente. Del direttivo della BCE. ci ha fatto capire sostanzialmente che insomma, le misure poste in atto sono misure di frontiera, se vogliamo chiamarle in questo modo. Sono riuscite tramite l'inclusione, per esempio, del credito tra gli strumenti acquistabili a dare una funzione di segnalazione, la chiamiamo tecnicamente, cioè quello che si vuole favorire è uno sviluppo del mercato del credito all'interno, quindi migliori condizioni per le imprese e per i privati all'interno dell'area euro, anche tramite la sostituzione dei prestiti bancari e un mercato, se vogliamo, più efficiente. Infatti questo tipo di provvedimenti hanno inciso, se vogliamo, già sulle nuove emissioni di credito. Quello che mi preme sottolineare è che lo spazio, secondo me, delle decisioni della Banca Centrale Europea a rischio zero, cioè senza generare necessariamente ulteriori conflitti politici tra paesi oppure ricorso alla Corte di Giustizia Europea in caso di rottura del mandato che la Banca Centrale Europea ha, secondo me sono abbastanza vicine ad essere esaurite. Chiaro che le affermazioni del Presidente Draghi vanno nella direzione di evitare che le aspettative sull'inflazione, che sono una dinamica molto importante, si avvitino e quindi la deflazione si crei per aspettative. Però è sostanzialmente importante notare come questo set di provvedimenti sia assolutamente... Senta, enorme. Leghiamo queste riflessioni invece al tema obbligazioni, che è quell'asset a cui gli italiani sono tanto affezionati e veramente fanno fatica a digerire questo scenario di tassi di interesse sul mercato obbligazionario raso terra, anzi addirittura in territorio negativo. Politica monetaria, investimento sul mercato obbligazionario e inflazione che rimane ancora su livelli bassissimi e lo rimarrà ancora a lungo. Come ci muoviamo nel mercato obbligazionario con questo contesto? Con cautela. Andando sostanzialmente a prendere esposizione su temi che non sono di natura nominale, se vogliamo, mi lasci chiarire che cosa intendo. Titoli obbligazionari, come dicevamo prima, più legati alla possibilità di uscire da questo contesto deflazionistico e di prendere giovamento da una dinamica di ritorno a una dinamica inflazionista dei prezzi, quindi titoli inflation linker. All'interno dello spettro dei titoli obbligazionari corporate bisogna notare prima di tutto che i mercati sono sistemi anticipativi, quindi immediatamente dopo la riunione della Banca Centrale Europea dove è stata presa questa decisione di acquisto di titoli corporate, i mercati hanno già stretto in maniera massiva gli spread che li riguardano. Quindi bisogna sicuramente essere costruttivi e utilizzare un portafoglio diversificato di titoli corporate. Detto questo, guardate, titoli corporate sono quelli societari, le obbligazioni societarie. Societarie, esattamente. Di solito vengono divisi tra società che operano nel settore non finanziario e società finanziarie. All'interno di questi titoli ci sono diverse tipologie, se vogliamo, di rating, un portafoglio bilanciato che si è esposto sostanzialmente a fattori di tipo diverso, anche sul rischio del credito, è secondo me la cosa migliore su cui investire. Bisogna tenere presente che tanta domanda di titoli obbligazionari di società è anche artificialmente creata da regolamenti che sono per esempio quelli che riguardano le assicurazioni in Europa, tipicamente li definiamo Solvency 2, avrete sicuramente sentito certo, parlare di questo. Come le tipo. Banche hanno Basilea 1 e 2, la Solvency è invece tutta quella regolamentazione che riguarda certo, il mercato assicurativo. Quindi tanta domanda di questi titoli è stata proprio operata da parte di investitori istituzionali come assicurazione. Senta, andiamo alla ciccia perché mancano 3 minuti prima dei saluti e questi 10.000 euro noi oggi proprio glieli vogliamo lasciare, io e Nicoletta, molto virtuali naturalmente, però lei poi fra un anno ci riporterà il risultato di questa sua gestione, magari li metterà nei vostri multi-asset. Detto questo, io sono aggressiva, quindi una bella fetta di rischio me la voglio prendere, invece Nicoletta più come dire con più buon senso vuole essere un po' più prudente. Tutelata. Allora, come ci organizza il nostro risparmio? A lei consiglio sostanzialmente di andare su un livello di azioni all'interno del suo portafoglio non superiore al 40%. Quindi anche se sono aggressiva? Anche se aggressiva, in questa fase un portafoglio con questo profilo di rischio, adesso le chiarirò subito il motivo, è forse il modo più intelligente di operare. Perché? Perché le consiglierò poi di andare a prendere una parte in obbligazioni che sarà legata più a obbligazioni di credito, quindi non a obbligazioni governative. C'è una cosa che tecnicamente noi definiamo correlazione tra gli spread di credito e le azioni. Tendono a muoversi insieme perché sono legati ai bilanci delle società. Quindi nel momento in cui io le consiglio di prendere un'esposizione a obbligazioni non più governativa ma su società, quindi esposta a spread di credito, naturalmente le dico anche di di prendere un po' meno azioni di quello che normalmente avrebbe fatto. Dentro questo paniere di azioni, questo è anche il tema comune sul portafoglio riscalato per il rischio che consiglierei a Nicoletta, è di prendere esposizione a mercati che possano avere un tasso di crescita di medio-lungo periodo soddisfacente. Proverei in questo momento a essere abbastanza neutrale con un leggero favore degli Stati Uniti e sull'Europa. Proverei a mettere una componente di mercati come in paesi emergenti che, volente o nolente, hanno tassi di crescita economici superiori e che sono poco posseduti in questo momento dalla maggior parte dei risparmiatori, quindi non sono scelte di consenso. Sulla parte obbligazionaria tenderei a ripeterle il discorso di prima, quindi sulla parte governativa investire principalmente in titoli legati all'inflazione, e sulla parte invece corporate, quindi legate alle obbligazioni emesse da imprese, di diversificare su tutto lo spettro. Ultimissimo consiglio, proprio per via di questo ciclo un po' a montagne russe che vediamo e della necessità di correggere in corsa l'esposizione al rischio di questo portafoglio, le consiglierei di tenere un 10-15% di liquidità. Che non è mai un brutto consiglio, anche se in questo momento no, e io apprezzo molto che lei ce lo dia, perché molto spesso molti suoi colleghi in realtà vogliono assolutamente ridurre proprio ai minimi termini appunto la liquidità detenuta su un conto corrente, su strumenti monetari di brevissimo termine, pronti contro termine, o conti di deposito che adesso rendono molto poco ma sempre di più di un botto ad un anno. Il conto di deposito rende sempre un pochino meglio. Allora, la risposta al nostro domandone, Paolo da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Che cos'è il FONC? Allora, Federal Open Market Committee. Grande. Ma grande Paolo, ha voluto anche sbilanciarsi con una pronuncia perfetta. Chissà se il nostro amico che ci fa sempre il pelo su come pronunciamo tutto, adesso si lamenta. Può darsi. Allora, dottor Sandrini, noi abbiamo terminato la nostra trasmissione, l'aspettiamo presto naturalmente, ci sarebbero stati tanti altri argomenti da affrontare, gli ultimi 10 secondi di tempo per, non lo so, un tema da tenere sotto osservazione da qui all'estate? La Brexit, non ce la siamo, non dimenticata, non abbiamo avuto non tempo. Non abbiamo toccato, abbiamo fatto delle scelte. Secondo me è importante, se posso darvi anche un consiglio di lettura. Ah già, è vero, c'era il consiglio di lettura, gliel'ho anche fatto preparare. Glielo cito solo perché mi ha menzionato l'estate, io di solito sotto l'ombrellone leggo. Come noi tutti. Ok. Che cosa si porta quest'anno in vacanza? Mi piace moltissimo un libro di un editorialista inglese che scrive sul Guardian, che si chiama Paul Mason. Il libro purtroppo in inglese si chiama Post Capitalism e si interroga su quale sia il fallimento dell'economia attuale nel generare tassi di crescita simili grazie al passato. Grazie per essere solo ricordato, sono proprio un noca, gliel'ho chiesto io e poi dopo neanche gli facevo l'ultima domanda. A domani, buona giornata a tutti.